diamo avvio a questa giornata e saluto anzitutto tutti coloro che sono intervenuti molto cordialmente. Mi auguro che possano godere questa giornata nella insegna di questa radiosa personalità verso la quale noi oggi volgiamo la nostra attenzione, e augurerei anche quanto possibile il dono della perseveranza finale, perché insomma il pomeriggio, la sessione pomeridiana con la discussione certamente non è quella che ha minor valore del nostro incontro. Nel contesto delle giornate che siamo andati tenendo sotto questo titolo generico, questo titolo d'insieme, Vertici dell'umanesimo cristiano, dopo aver parlato di San Basilio, di San Benedetto, l'anno scorso di San Francesco, sentivamo assolutamente il bisogno di affrontare, di portare l'attenzione su una donna che in questo campo ci potesse dire qualche cosa di grande e di significativo. E è venuto spontaneo pensare a Santa Caterina da Siena. Credo che veramente per Caterina da Siena l'incanto, sia dal lato umanistico e umano, sia dal lato sovrumano, soprannaturale, si congiungono in una maniera grandiosa. Se pensate la sua vita in una famiglia e in quella famiglia, e poi nella comunità cittadina in cui essa si è trovata a vivere, e poi quasi senza accorgersi nel travaglio della nazione italiana di quel tempo, e poi nel travaglio della Chiesa universale e della società universale di quel tempo. Mi pare che c'è una dimensione crescente di umanità che l'ha impegnata fino in fondo e che lei ha portato avanti in un modo così grandioso proprio in grazia della sua mistica, della sua profonda soprannaturalità e dei doni di grazia che essa ha ricevuto, che la hanno aiutata a vivere in una maniera incomparabile questa umanità. Ecco, questo mi pare di sentire fin dall'inizio di questa giornata, per la quale ringrazio i relatori che tanto benevolmente ci hanno dato la loro adesione. I nomi li trovate già nel programma. Per primo presento il professor Franco Cardini dell'Università di Firenze, professore di storia medievale che si è occupato in particolare del mondo umano nel Medioevo. È recente una sua pubblicazione sulle radici della cavalleria medievale. Ho visto di recente anche su un giornale un suo intervento sulla donna nel Medioevo. Ecco, attualmente ha fatto un sacrificio particolare per essere tra di noi, perché si trova dislocato a Göttingen presso il Max Planck Institute, dove è comandato attualmente, e quindi gli siamo doppiamente grati anche per il trasferimento straordinario che gli ha consentito di essere fedele al nostro appuntamento. E passo senz'altro a lui la parola per la relazione su Santa Caterina da Siena nella vita politica del suo tempo, che dovrebbe essere per noi un po' come la cornice generale entro la quale si pongono poi le altre due relazioni. Allora, cominciamo con un gesto rassicurante che in generale non serve a nulla, ma serve semplicemente a far vedere le buone intenzioni di non esagerare con la pazienza altrui. In questi casi il compito del primo relatore è sempre pieno di vantaggi e svantaggi. Ogni vantaggio ha il suo rovescio della medaglia. Vantaggi perché evidentemente parlare per primo è sempre un vantaggio, sempre che l'uditorio è meno stanco e spetta appunto al primo relatore poi rovinargli l'appetito per gli altri. Questo è un cattivo servizio in generale. Noi facciamo i relatori che seguono, questo è fatale, e sì, anche perché si può un po' impostare il discorso. D'altra parte, questo impostare il discorso, questa necessità di impostare il discorso, comporta anche una certa serie di responsabilità, no? Quindi parlare di Caterina evidentemente è un qualcosa che, come vedete dal programma, si può fare da vari punti di vista. L'unità del personaggio è un'unità che poi spetta un po' a ciascuno di voi, a ciascuno di noi, di comporre, perché non sempre emerge dalle singole relazioni, ma emerge semmai dal recupero che poi i lavori dovrebbero comportare. Per questo, come si diceva poco fa, è importante anche il momento del dibattito. D'altra parte, storicamente parlando, e non perché si debba sempre soltanto parlare di storia e nell'ambito dei parametri storici, ma semplicemente perché chi vi sta parlando adesso fa questo mestiere, non ne sa in fondo fare altri, dal punto di vista dello storico, dicevo, è importante calare evidentemente un personaggio nel tempo in cui è vissuto. Questo non significa affatto che il personaggio in questione, e nel nostro caso è un grande personaggio da molti punti di vista, e dicendo questo non faccio dell'apologetica, adesso se ne è fatta fin troppa su Caterina, anche un personaggio come Caterina ha bisogno di essere collocato nel suo tempo, anzi direi di più, direi che se noi non lo collochiamo nel suo tempo, ed è quello che nelle decine di minuti che seguono vorrei cercare di dimostrarvi, se noi non lo collochiamo nel suo tempo, il carattere specifico della sua testimonianza, anche come santa al limite, quindi anche come un punto di riferimento per la spiritualità cristiana, questo carattere evidentemente scompare, diventa generico, diventa diafano, diventa qualcosa che poi non si comprende. Evidentemente esiste un livello in personalità come Caterina e in altre personalità che non è soltanto puramente storico, non credo che sia necessario essere credenti per capire tutto questo. D'altra parte però questa componente metastorica di questi grandi personaggi evidentemente si integra, si manifesta, si presenta nella storia. E la storia è la scienza del particolare, è la scienza dell'avvenimento e della spiegazione dell'avvenimento. Quindi cerchiamo non di spiegare Caterina, questo sarebbe eccessivo dirlo, cerchiamo di spiegare il tempo di Caterina e quindi la sua testimonianza specifica. Da questo poi, se vogliamo, trarremo anche tipi di conseguenze e di considerazioni diverse, anche per l'oggi se si vuole. Io penso che questo sia possibile scientificamente, sia legittimo eticamente, però bisogna naturalmente arrivarci. Caterina, come sapete, vive un periodo particolare, diciamo tra il quinto decennio del XIV secolo e l'ultimo ventennio, grosso modo. Diamo delle date più precise: 1347 la nascita, 1380 la morte. Perché ho esitato prima di dare questi due parametri? Per un motivo molto semplice, di tipo metodologico generale, visto che molti di voi sono studenti, quindi hanno davanti a loro la storia anche come un problema di materia da apprendere, quindi un pochino di scatola chiusa che bisogna anche cercare un po' di aprire. Per gli uomini del Medioevo in generale, l'espressione questa non vuol dire assolutamente nulla, perché come sapete il Medioevo scolasticamente inteso è quella cosa che comincia nel V secolo, però qualcuno tutto sommato dice che potrebbe anche cominciare nel III e qualcun altro dice che potrebbe cominciare nell'VIII e finisce più o meno nel 400, però attualmente una buona parte della storiografia inglese, francese e ormai anche italiana sostiene che tutto sommato questo Medioevo potrebbe finire anche a metà del 300. Quindi evidentemente un periodo convenzionale con questo nome Medioevo, nato fra l'altro per una serie di malintesi, nato con una buona dose di connotazione offensiva, perché in fondo era la media età tra due grandi età della cultura umana, che erano l'antichità classica e il Rinascimento, e nel mezzo c'era questa valanga di secoli dominati da barbari, da città di mercanti, da tutta questa gentaccia che in qualche modo bisognava storicamente organizzare. Allora, come li chiamiamo? Rinascimento no, antichità non lo era più, Rinascimento non lo era ancora, era un'età di mezzo, un ponte. Naturalmente, come tutti i termini, nato offensivamente, questo termine è stato poi rivendicato, no? Nel secolo scorso e anche in questo secolo, anche negli anni in cui viviamo, attualmente si parla molto spesso di Medioevo con una connotazione addirittura fin troppo elogiativa, che è altrettanto antistorica di quella dei buoni storici del 500-600 che hanno tirato fuori l'etichetta offensiva medioevo. Quindi, come vedete, le parole non modificano i fatti, però modificano il nostro modo di avvicinarsi ai fatti, e questo è importante. Quindi dicevo, l'uomo del Medioevo in fondo non esiste, perché in mille anni l'uomo cambia. D'altra parte, questo momento particolare, in questo momento particolare, l'uomo è sospeso in una serie di anni che stanno veramente rapidamente mutando la faccia del continente. Vi dicevo, esitazione mia nel darvi le date, è perché, vedete, anche la cronologia è intanto un'arte moderna, non perché gli uomini del Medioevo non conoscessero l'arte di verificare le date e non conoscessero l'importanza di sapere quando con precisione una cosa era avvenuta, ma perché evidentemente la loro valutazione del tempo, e quindi del prima e del dopo, era una valutazione diversa. E quindi evidentemente non era tanto importante l'anno in cui un uomo nasceva, quanto era importante l'anno in cui un uomo faceva tutta una serie di cose, ivi compreso e soprattutto dei santi, il nascere, il dies natalis dei santi, il loro nascere alla vita eterna, cioè quello che da questa parte della barricata, dalla parte della barricata dei viventi, è appunto il giorno della morte. Quindi noi sappiamo con precisione di Caterina, e non solo di Caterina, di anche di molti santi precedenti, la data della morte, in qualche caso può essere più o meno insicura o leggendaria, in qualche altra è precisa. Non sappiamo molto bene la data della nascita, e nella prima metà di questo secolo c'è stato un buon gruppo di studiosi del problema, i quali hanno sostenuto con buoni argomenti, anche se oggi ormai sono del tutto abbandonati, che tutto sommato Caterina può essere nata al principio degli anni 30 e non nella seconda parte degli anni 40, e quindi può essere morta più o meno sulla 45ina e non come oggi noi pensiamo alla data tra l'altro simbolicamente interessante, questo che gli aveva un po' messi sull'avviso, la data di 33 anni, che come sapete è la data tradizionale almeno della vita di Gesù Cristo, e quindi è una data a cui molto spesso le vite dei santi si conformano per un principio che generale che è seguito molte volte nella vita dei santi del Medioevo, da parte soprattutto degli scrittori che ne parlano, cioè il principio dell'adeguazione della vita di quel santo particolare di cui si parla alla vita di Gesù Cristo. Quindi evidentemente incertezza cronologica è importante tutto questo. È importante anche per entrare nella mentalità di un tempo che non pensa evidentemente con le nostre categorie, non pensa secondo le categorie che hanno spinto, per esempio, me a fare un gesto particolare, cioè pormi immediatamente il problema della misura di un certo spazio temporale. Tempo però di mutazioni, il 300. Vi dicevo dianzi, c'è una grossa lotta, diciamo polemica, si dice polemica in generale, qualche volta diventa anche una lotta senza esclusione di colpi, ivi compreso i personali, fra gli studiosi per stabilire un problema cronologico. Oggi non sono più tanto di moda queste cose, quando finisce un'epoca comincia un'altra, però non sono più di moda ma riemergono periodicamente. Oggi si pensa in realtà che tutto sommato questa fine del Medioevo a cui noi siamo abituati, no? Il 1492, la morte di Lorenzo il Magnifico, in un certo senso è un po' il sigillo del Medioevo che chiude il Medioevo e apre il Rinascimento, la apertura del nuovo mondo, la scoperta dell'America, la fine dell'ultimo regno saraceno di Granada, quindi la fine anche della presenza della crociata in Europa, l'unificazione cristiana del continente, l'unificazione della Spagna, che poi sarà, come sapete, la grande potenza del Cinquecento, quella che darà un po' il tono nel bene e nel male, perché forse è anche la responsabile della crisi economico-sociale del secolo XVI, eccetera. Tutto questo noi lo abbiamo preso come esempio per dire, ecco, è finita un'età, comincia un'età nuova. Oggi si pensa un po' differentemente, in fondo si è notato che fra 400 e 500 ci sono elementi di rottura, senza dubbio il 500 non è più molto simile al secolo precedente, c'è questo grosso fatto che il mondo si è allargato, c'è un nuovo mondo e via discorrendo, però ci sono elementi di continuità altrettanto forti. E allora, una buona parte della storiografia attuale, soprattutto, ripeto, inglese, francese e attualmente anche americana, una cosa che certamente molti dei presenti sapranno, ma forse non tutti i più giovani sapranno, negli Stati Uniti si è sviluppata negli ultimi 10-20 anni una grossa storiografia, soprattutto medievistica. Ci sono centri di studio medievistico, di studio dell'età medievale, che veramente non hanno niente da invidiare ai centri europei, anzi probabilmente è vero il contrario in molti casi. Ebbene, si pensa al 300 come secolo di cerniera, come secolo di chiusura del Medioevo e di apertura dell'età moderna, di apertura di una fase di crisi che sarà una crisi lunga, che durerà più o meno, grosso modo, addirittura al XVII secolo, dopo la quale poi si entrerà nell'età più propriamente proto-industriale o via discorrendo. Quindi che cosa ci dice tutto questo? Siamo ancora nel mondo della storiografia e non ancora nel mondo della storia. Ci dice che nel 300 sono successe una serie di cose che hanno mutato la faccia dell'Europa e direi del bacino mediterraneo, anzi direi più precisamente dell'Eurasia, poi vi spiegherò perché dico dell'Eurasia, e tutte queste cose noi le chiamiamo, in molti manuali, fra i più recentemente scritti, voi troverete un capitolo dedicato a questo, specialmente i manuali scritti dagli storici un po' più giovani, la crisi del 300. Voi sapete che attualmente viviamo un'epoca di crisi, o che perlomeno noi sentiamo come tale, quindi siamo molto sensibili ai momenti paralleli al nostro nella storia della civiltà. E individuiamo uno di questi momenti paralleli di lunga durata negli anni che vanno grosso modo dal 1320 circa fino al 1380 circa. Quindi vedete che il periodo di vita di Caterina da Siena è perfettamente compreso proprio in quest'anno di crisi, in quest'anno di turbolenza. Guardate che se noi non facciamo attenzione a questo fatto, rischiamo non di non cogliere la personalità di Caterina, che spiritualmente parlando resta intatta, quale ce l'hanno tramandata i suoi scritti, le sue lettere, le memorie di coloro che parlano di lei, però rischiamo di non capire in che cosa propriamente, concretamente, si sia poi estrinsecata questa santità. E la santità senza opera, come sapete, rischia di non essere più tale. Ora, crisi del 300. Bisognerebbe spiegarla questa crisi. E così, in pochi minuti, così a freddo, ma anche se non fossimo a freddo sarebbe lo stesso, è un po' difficile, anche perché ci sono molte cose, tra gli elementi che compongono la crisi, che sfuggono allo storico. Io mi proverò a fare un po' un quadro della situazione. E per fare un quadro della situazione, forse la cosa migliore è partire dalle basi materiali. Cioè non partire come si potrebbe partire, dai vertici delle istituzioni e dire, bene, cosa succede nel 300? Come sapete nel Medioevo c'è un papato, c'è un impero, ci sono vari regni, gli uomini pensano per categorie molto locali, si è nemici, si può dire, da città a città, da porta a porta, eccetera, però nello stesso tempo pensano anche per grandi categorie universali. Le città italiane, come sapete, siamo in una di quelle, non siamo nella più turbolenta in fondo. Io vengo da una città che nel Medioevo era molto turbolenta, anche in seguito, Firenze, Trento lo era meno, però certamente le città italiane erano abituate a quest'idea della guerra fra città e della guerra all'interno delle mura cittadine. Però nello stesso tempo si pensava per categorie universali, si pensava di appartenere a un unico grande corpo, il Corpus Christianorum, la Christianitas. Questo unico grande corpo era un, per così dire, bicefalo. Queste realtà universali, alle quali oggi noi che stentiamo ancora a abituarci a quest'idea di essere europei, e che purtroppo quest'idea ci costa cara, perché abbiamo sulle spalle un bagaglio di secoli in cui si è cessato di essere europei per diventare francesi, inglesi, tedeschi e via discorrendo, ecco, questa realtà comincia proprio a frammentarsi nel XIV secolo, quando il papato, come sapete, è in crisi, addirittura si è dovuto spostare dalla città di Roma, in decadenza, dominata da un'aristocrazia violenta signori che fra l'altro abbastanza miserabili, fra l'altro anche come signori, quali fra l'altro non risiedevano nemmeno in città, ma nei castelli disseminati nella campagna romana. La Roma del 300 è una Roma ridotta quasi allo stato di pastorizia, è una Roma in cui veramente le pecore non è soltanto un'espressione di Cola e Rienzo, perché corrispondeva alla realtà, le pecore pascolavano sul Campidoglio. Il Papa si è spostato ad Avignon. Ad Avignon la Curia Pontificia è una grande potenza, è questa grande capitale pontificia di Avignon, se voi potete ancora capire, intuire che cosa fosse se visitate il palazzo papale di Avignon. Era un grande centro di raccolta finanziaria, era un grande centro di avvocati, di canonisti, uomini di legge che si occupavano dello specifico diritto della Chiesa, di diplomatici, di banchieri e via discorrendo, una grande raccolta di denaro, eccetera, un grande centro, una grande cancelleria, un grande centro diplomatico. Però era un colosso nello stesso tempo dai piedi d'argilla, contestato, per dirla con una parola che ora non va più tanto di moda, ma che per noi significa qualcosa, per l'uso che se ne è fatto negli ultimi anni, contestato, dicevo, violentemente, contestato alla base del corpo dei fedeli, e soprattutto, e basta una carta geografica per rendersene conto, isolato in una parte della Francia meridionale, che per certi versi è vivissima, è una zona innervata di strade, quindi ricca di commercio, vicino a un grande porto che è il porto di Montpellier, abbastanza vicino a un altro grande porto che è il porto di Genova, eccetera. Però d'altra vicina a aree di importanza economica grandiosa, come l'area per esempio renana, eccetera, che è abbastanza ben raggiungibile da lì, anche se non è molto vicina geograficamente, però nello stesso tempo è un colosso dai piedi d'argilla. In una Francia divisa, in una Francia dominata da questa grossa tragedia europea che è stata la guerra dei cent'anni, che in realtà con vari intervalli non è durata cent'anni, ma è durata quasi un 120 anni, e che per giunta era caratterizzata da un fatto. La guerra dei cent'anni è cominciata verso il 1330-37, eccetera, in realtà è finita soltanto negli anni 40 del 400. Non è stato un secolo di guerra guerreggiata, ma è stato un secolo di piccoli episodi bellici, in sé trascurabili, molto poco interessanti dal punto di vista militare, molto poco interessanti dal punto di vista sociale, ma intervallati da lunghi periodi di tragica pace. Perché uso questa espressione paradossale? Può sembrare addirittura, a primo colpo, addirittura un po' repellente, come fa la pace a essere tragica. Voi sapete che la guerra del 300 la si fa con i mercenari. I mercenari sono in generale gente che non si adatta a vivere la vita del contadino, la vita dell'operaio, ma questa espressione non è esatta per il Medioevo, diciamo del prestatore d'opera nelle grandi manifatture, per esempio tessili, che cominciavano già a esserci in certe grandi città, anche italiane, a Firenze, a Siena e via discorrendo. Il mercenario viene molto spesso dalle zone più desolate, quindi anche più barbare, se si vuole, dell'Europa, viene dalla Scozia, viene dalla Castiglia, viene dagli altipiani delle Alpi, disseminati nella catena delle Alpi, eccetera. Viene da zone povere, è un uomo che sfugge alla miseria e che per fuggire alla miseria arriva a vendere la propria vita e naturalmente anche quella degli altri, fa questo terribile mestiere delle armi, in realtà per pochi soldi o per la speranza del bottino. Chi organizza questa gente? che molto spesso non sa nemmeno combattere troppo bene. Chi li inquadra, chi li addestra? Addestrarli è il minimo, a uccidere si insegna facilmente. Non si insegna altrettanto facilmente, viceversa, quella che i romani chiamavano la disciplina militaris, a organizzarsi come corpo. Una specie di società di cascami del vecchio ceto dirigente feudale, molto spesso sono signori caduti più o meno in miseria o piccoli cavalieri, lo dico tra virgolette su termini cavalieri perché si abusa di questa parola cavaliere, ma non si sa in realtà bene a che cosa corrispondesse socialmente, inglesi, francesi, tedeschi, compagnie di ventura, le quali finché sono in guerra non sono molto pericolose perché vengono pagate regolarmente. E per loro un uomo costa caro, quindi non lo vogliono impegnare. In generale non uccidono troppo in guerra. Diventano pericolosissimi in tempo di pace, perché quando due stati fanno pace fra loro, cosa fanno? Evidentemente sciolgono il contratto con le compagnie di ventura. A questo punto questi gruppi armati diventano dei disoccupati, quindi con tutta la rabbia dei disoccupati, legittima che nella società industriale noi ben conosciamo, ma con l'aggravante che si tratta di disoccupati armati in una società ricca, almeno ai livelli di ceto dirigente, e inerme. Quindi grande tragedia generale. Ecco, dicevo, si potrebbe cominciare da questo: rovina delle istituzioni, guerra continua, nascere degli stati nazionali che naturalmente si avviano a organizzare un tessuto di Stato accentrato, di Stato burocratico, eccetera, profondamente diverso dal tessuto dello Stato feudale di tipo medievale, quale poteva essere l'impero, ammesso che per l'impero si possa parlare di Stato, non è proprio il caso. Tutto questo fa già da sé, lo vedete, la crisi del 300. Però è una crisi del 300 vista come forse l'avrebbe potuto vederla qualche storico di qualche decina di anni fa, che tra l'altro erano ottimi e grandi storici, sono stati dei grandi maestri, ma che naturalmente vedevano le cose un po' diversamente da come le vediamo noi, con un'attenzione, con una sensibilità rivolta, diciamo, alle istituzioni, al modo di organizzarsi della società. Oggi forse si potrebbe partire dall'estremo opposto, non dal vertice, ma dal profondo, dal basso. E allora cominciare dalle condizioni materiali dell'esistenza. E veramente qui il discorso della crisi del 300 diventa più delicato, più sottile, almeno quando si tratta di organizzarlo, ma anche più, e lo si vede insomma, diventa anche molto più tragico, molto più drammatico. Voi sapete probabilmente che il periodo fra il 1100 e il 1200 è stato un grande periodo di sviluppo dell'Europa. Le prove, fondazioni di città, ampliamenti delle città già esistenti, grandi traffici mediterranei, conquista del Mediterraneo, non pensate soltanto alle crociate, perché poi, beh, insomma, dopo tutto sommato le crociate non hanno voluto dire un granché di per sé da questo punto di vista della conquista del Mediterraneo. Pensiamo invece alle reti mercantili che si sono stabilite fra le varie sponde del Mediterraneo, cristiane occidentali o cristiane orientali, cioè bizantine o musulmane, non ha importanza. Il commercio ha comportato anche delle guerre, le stesse crociate in realtà erano sostenute da mercanti e non certo per motivi ideali, anche se poteva esserci anche quella componente. Però evidentemente il mercato e il far la mercatura, come dicevano i nostri mercanti del Medioevo, è qualcosa che lega le genti diverse. Alla fine del 200, lo sapete e sarete, non so bene se deliziati o crocifissi dalla televisione nei prossimi mesi, in merito, alla fine del 200 c'è questo grosso fatto di Marco Polo. Non che fosse un grande personaggio lui, io personalmente ritengo anche che lo fosse, però su questo i pareri possono essere discordi, non è tutto sommato rilevante. L'importante è che Marco Polo è evidentemente il sintomo e nello stesso tempo un po' il vertice, la punta di diamante, l'uomo che ha saputo raccontare quello che ha fatto, eccetera, di tutta una pletora di gente che non erano soltanto mercanti, in molti casi erano anche missionari, soprattutto francescani o anche domenicani, ma i domenicani si sono fermati un pochino più a ovest, verso l'Armenia, eccetera, i francescani sono quelli che hanno cercato l'avventura dell'evangelizzazione dell'Asia profonda, e questa gente è arrivata fino alla Cina, il che vuol dire che è arrivata fino all'estremo oriente, a quello che Oggi sapete, oggi si ha una visione dell'universo tale per cui lo stesso termine Estremo Oriente è molto relativo, i punti cardinali sono una cosa relativa, per i cinesi l'Oriente sono gli Stati Uniti d'America. Allora l'Estremo Oriente significava qualche cosa di preciso, al di là non c'era veramente più nulla, o meglio, si diceva ci fosse l'isola del paradiso terrestre e poi cominciava l'oceano, che era un mare avvelenato, che non si poteva navigare se non lungo le coste, eccetera. Quindi ecco, l'uomo del Medioevo è veramente, l'uomo del Medioevo riceve dal 200 veramente questo grande, siamo a Trento, quindi inutile ricordare Dante, no? Questo grande allargarsi, che è proprio anche un allargarsi, se si vuole ricorrere a un'immagine fisica, un allargarsi del cuore, un allargarsi delle prospettive mentali, un allargarsi delle prospettive economiche, delle prospettive politiche. Bene, tutto questo grosso sistema, solido sistema, mercante del 200, è un operatore economico estremamente preciso, estremamente concreto, eccetera. L'uomo politico del 200, basti pensare a certi grandi personaggi, non so, Federico di Svevia, Federico II, anche se in fondo lo si può considerare un uomo che ha fallito al suo scopo politico finale, poi tutti conosciamo la grande ampiezza della mentalità di uomini di questo genere. Alla fine del 200 questo mondo entra in crisi. È una crisi che attraverso i versi della Divina Commedia la si comincia già a cogliere, ma è una crisi che comincia da lontano e comincia, direi, da cose che apparentemente si potrebbe pensare, oggi no, non lo si pensa più perché anzi va di moda pensare il contrario, ma che in fondo si potrebbero anche ritenere aver poco a che fare con la storia. A partire dal 1280 è cominciato a piovere. E cioè, sono cominciate una serie di annate che oggi, come sapete, con l'ausilio di tutta una serie di scienze che non appartengono alla storia, ma che appartengono alla biologia, che appartengono alla geologia, alla geodetica, alla botanica, eccetera, siamo in grado, per esempio, di sapere quando una certa estensione di terreno è stata coltivata, in quali fasce di anni o di secoli, con quali tipi di colture, quando è stata abbandonata, quando è tornata a essere coltivata ma con un tipo di coltivazione diversa. Se voi prendete un qualsiasi appezzamento di terreno e fate e ne prelevate quello che i tecnici chiamano il cilindro, cioè con una asticciola di metallo, una prova, una campionatura stratificata del terreno, voi siete in grado poi, o meglio, l'analista è in grado di stabilire e di dirvi in quali secoli questo terreno è stato coltivato, in quali secoli era invece abbandonato e quindi c'era la palude o c'era la foresta, che tipo di caratteristiche aveva la flora di quella certa zona, eccetera. Evidentemente queste sono cose fondamentali nella storia, così come è fondamentale il fatto che oggi i residui organici si possano, con un procedimento di analisi abbastanza semplice, analizzare e datare. Tutto questo ci porta a una conclusione che i cronisti del Medioevo in fondo ci dicevano, cioè che verso la fine del 200 il clima è cominciato a peggiorare, insensibilmente dapprima, no? Piccoli segni, le glaciazioni del Baltico sempre più frequenti, le piogge sempre più insistenti, il vescovo di York, il povero uomo, cioè non lui personalmente, i suoi predecessori, si era piantato una vigna a York, e si faceva il vino da messa, quindi anche forse con un certo livello di gradazione alcolica, che per il vino medievale non è frequente, e se l'è fatto questo suo vino da messa per la chiesa di York per tutto il XII e XIII secolo, alla fine del 200 era disperato perché la vigna non gli veniva più. Non gli veniva più perché il clima era peggiorato, c'era troppo umido, c'era troppo poco sole, e alla fine questo terreno a vigna lui l'ha dovuto, con la morte nel cuore, riconvertire a pascolo, e ci ha mandato le pecore, e poi dopo ci ha fatto una chiesa, eccetera, eccetera. Ecco, è un sintomo, no? La vigna del vescovo di York, poi per i medievalisti è diventata una specie di apologo, che ormai è anche passato di moda, ma può essere divertente, perché è uno dei segni. La linea di cultura della vite, cioè di una pianta che ha bisogno di un minimo di calore, anzi nemmeno tanto minimo, si arretra pericolosamente dalla fine del 200 ai primi del 300. Piogge insistenti, malattie soprattutto di tipo polmonare, che colpiscono quindi soprattutto i bambini e le persone anziane. Guardate che mentre il termine bambino in fondo potrebbe sembrarvi un termine obiettivo, si è bambini nei primi anni, il termine persona anziana, come sapete, è un termine che storicamente è dinamico. Cioè oggi noi non consideriamo anziano un quarantenne, ci mancherebbe altro, io ho 42 anni, e però, ecco, nel 300 molto probabilmente un quarantenne, anzi senza dubbio, un quarantenne era già considerato una persona non alle porte della vecchiaia, ma insomma di età matura molto avanzata, con tutte le conseguenze anche biologiche di questo, del caso. Non è che la mentalità sia qualcosa così che viene fuori per convenzione. La mentalità si basa su dati di fatto. A 40 anni in generale l'uomo del 300 aveva grossi problemi dentari, e siccome le protesi non esistevano, questi problemi si vedevano, erano evidenti. Ecco, tutto questo che cosa comporta? Il bambino, dicevo. Ma nel 300 si resta bambini a lungo. I contratti, per esempio, che si fanno con le balie prevedono in qualche caso in Toscana, e dico i casi toscani perché li conosco, altri casi non lo so, ma penso che nell'arco alpino addirittura la cosa fosse più pronunciata, che addirittura si dovessero allattare ragazzi fino a 2-3 anni tranquillamente. I cronisti ricordano di ragazzi, bambini grandicelli di 5 anni per esempio, e prendevano ancora il latte materno, il latte della balia. Questo era abbastanza comune perché, come sapete, le gravidanze nel Medioevo sono, soprattutto nel basso Medioevo, nell'alto ne sappiamo meno, i documenti sono meno, quindi non lo possiamo dire. Nell'alto Medioevo queste gravidanze sono molto concentrate, una donna praticamente rischiava di essere gravida dai 15 anni fino ai 35 regolarmente, non è detto poi che di questi figli tutti vivessero, perché al contrario c'era un'alta mortalità infantile. Questa mortalità infantile diventa particolarmente alta nel 300, ai primi del 300. Tutto questo cosa comporta? Umidità, cattivi raccolti, debilitazione organica pronunziata, evidentemente pronunziata infermità generale, con punte di anticipata mortalità o di forte mortalità infantile. Alla fine di tutto questo c'è la peste del 1347, che arriva in Europa nel 1348 e ci sta fino al 1350. Questo è il mondo di Caterina. Un mondo che naturalmente cosa comporta? Questi squilibri comportano dei grossi contraccolpi a livello sociale, che sono i contraccolpi che noi leggiamo nei nostri libri di storia. Voi sapete, per esempio, che negli anni 40 del 300 sono fallite a catena, a causa dell'insolvenza del re d'Inghilterra, il quale era occupato a fare la guerra col re di Francia nella guerra dei cent'anni, anche se non sapeva ancora che sarebbe durata tanto, falliscono le banche dei fiorentini, che erano i grandi banchieri del tempo, e questo comporta naturalmente il fallimento a catena di tutta una serie di piccoli operatori economici. I grossi operatori economici, con un fenomeno che agli economisti non sembrerà strano, nemmeno a noi, basta leggere i giornali di questi giorni, i grossi operatori economici riescono a superare la crisi in un modo o nell'altro, magari convertendo rapidamente i loro beni da mobili, cioè denaro, in immobili, acquistando terre. I piccoli operatori economici vengono rovinati. Quindi generazioni intere di fortune accumulate nel 200 che spariscono nel 300. La crisi economica, come sapete, genera insicurezza e anche nervosità sociale diffusa. Lotte cittadine fortissime, che però acquistano una connotazione diversa dalle lotte che noi siamo abituati a conoscere nel 200. Nel 200 noi conosciamo queste lotte, so io, fra Guelfi e Ghibellini, o fra grandi famiglie che si contendono il potere nella città. Nel 300 l'agitazione cittadina rimane, anzi diventa un'agitazione di massa, non sono più gruppi di armati che si scontrano, ma sono intere città che qualche volta, come si dice oggi, scendono in piazza, e diventa una situazione esplosiva, perché ormai i conflitti non sono più soltanto politici, sono anche conflitti sociali. Agitazioni quindi di, se volete chiamarli con un nome che non è proprio adatto alla loro connotazione, ma che sarà rapidamente comprensibile, diciamo agitazioni proletarie, se vogliamo. In Campania, specialmente nelle campagne francesi degli anni 50, ecco una conseguenza della guerra dei cent'anni. Le guerre medievali, sapete, si facevano, nonostante quello che fa vedere il cinema, poco con le armi, però si faceva molto col taglio delle viti, con l'incendio dei granai e con la messa a fame sistematica di città intere. Si circondava la città e si aspettava. Ecco, tutto questo naturalmente comporta fame diffusa. La fame diffusa, la carestia, che poi non causerà la pestilenza, ma certamente sarà una causa del fatto che le difese ormai sociali, organiche, eccetera, quando è arrivata la peste erano pochissime, tutto questo causa anche diffuso senso di rivolta. Nelle campagne, le jacquerie francesi del 56-58, nelle città italiane, specialmente in Toscana. Perché in Toscana? In Toscana perché evidentemente la Toscana, terra di città, città molto fortemente urbanizzate, città dove c'è già una produzione che potremmo definire quasi preindustriale, l'arte della lana, della seta, eccetera, più che altro della lana del 300. Queste città hanno naturalmente una forte concentrazione, diciamo così, operaia, che sente il contraccolpo, essenzialmente il contraccolpo di quelli che oggi noi definiamo i bisogni primari. Gente abituata a vivere sul filo del necessario, che si vede sospinta sotto quel limite di guardia, che in parole povere non ha da mangiare. Quindi, grossa rivolta, nella quale, badate, gli storici di oggi tendono a scoprire, e credo abbiano ragione, i primi elementi dell'organizzazione operaia, i primi elementi di una rivendicazione, di una dignità del prestatore d'opera, che nel 300 evidentemente era di là da venire come sul piano della mentalità. Questi elementi senza dubbio ci sono, specialmente nella rivolta senese del 71 e fiorentina del 78, questi elementi sono evidenti. Però il problema fondamentale resta un problema di fame. Ecco, perché abbiamo parlato di Siena nel 71 e di Firenze nel 78? Perché probabilmente è il tempo anche per preparare poi il piano che verrà dopo di me, stamattina, è il tempo un po' di far calare Santa Caterina, o meglio, Caterina da Siena, non ancora santa, nella realtà del suo tempo. Che è questo tempo? Le guerre diffuse in tutta Europa, i grandi conflitti in Italia per la creazione dello Stato regionale, che ormai le città tendono a espandersi, alcune città non ci riescono e cadono preda di città più forti, altre ci riescono e fondano degli stati regionali. Nel 200 voi sapete che quasi ogni città dell'Italia comunale, quindi centro settentrionale, faceva stato a sé. Nel 400 voi in tutta l'Italia centro settentrionale di stati ne contate sì e no, meno di una decina, di cui quelli importanti sono in realtà la Repubblica di Firenze, la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano. Quindi c'è stato evidentemente un concentramento di poteri, basta avere una plante storica per rendersene conto. Caterina viene al mondo in questo mondo, in questa società, in questa situazione. Nasce probabilmente nello stesso anno in cui arriva la peste a Siena o poco dopo. La peste a Siena, ci sono dei documenti precisi che ce lo dicono, è arrivata nella primavera del 48, c'è il segnale di come il contagio si diffonde attraverso la via di Pisa o attraverso la via di Talamone, cioè dei due porti che interessavano la città di Siena. Abitualmente il contagio viene dal mare. Quello che è più terribile, più straziante, è che questa gente sapeva già che cosa era successo sulla costa e il contagio lo stava aspettando e prendeva delle misure, badate, ne prendevano, chiudevano le porte, bruciavano i vestiti, eccetera. Evidentemente, non avendo una precisa eziologia della malattia, non la potevano fermare e allora, pur prendendo le misure, aspettavano tutto questo, se non con rassegnazione, forse anche con disperazione, però l'aspettavano come qualcosa che doveva accadere. E accadde, infatti. Nuova peste nel 74, sempre a Siena. Nell'intervallo fra il 48 e il 74 abbiamo nel 71 la rivolta della cosiddetta Compagnia del Bruco, che è in realtà una specie di associazione, se volete, di operai delle industrie tessili, dico industrie tessili, anche operai tra virgolette, di Siena, che interessa Caterina direttamente, perché Caterina viene da una famiglia di non poverissimi, ma abbastanza modesti tintori. Quindi da una famiglia, diremmo, della piccolissima borghesia. Ecco, per dire che cosa Caterina ha fatto nel mondo politico del suo tempo, bisognerebbe, e io brevemente vi presenterò, cercherò di presentarvi un po' il programma di Caterina, ma bisognerebbe fare qualche precisazione, e questo lo faranno altri oggi, sulla natura del messaggio spirituale di Caterina. Perché come vedete, ecco, noi abbiamo cominciato dalla realtà politica, economica, sociale, eccetera, per cercare di capire un messaggio spirituale, ma il discorso è un po' circolare. Se noi non abbiamo nessun'idea della natura spirituale di questo messaggio, anche poi la sua estrinsecazione sociale ci sfugge. Ecco, diciamo questo tanto per cominciare. Santa Caterina da Siena è famosa per molte ragioni, fra cui una, la sua passione per le vite dei santi. Non è vero che fosse una donna, del resto le lettere saranno poi state riviste da tutta una cancelleria che aveva intorno, della quale si dirà due parole fra poco, ma le lettere ci fanno vedere una donna che insomma conosceva varie cose, non la si poteva definire incolta. Si dice che non sapesse né leggere né scrivere, ma badate, prima di tutto questo era estremamente fra le donne, soprattutto diffuso nel 300 e anche prima, lo sarebbe stato anche dopo, dopo forse nel 600 ancora di più. D'altra parte non dobbiamo fare il rapporto, sarebbe un gravissimo errore, fra conoscenza della scrittura, sia passiva leggere, sia attiva scrivere, e cultura. Questo per noi è quasi automatico, un uomo che non sa scrivere né leggere è evidentemente un uomo incolto. L'ABC della cultura si impara leggendo. Gli uomini del Medioevo, il discorso è molto diverso. Gli uomini del Medioevo imparano in altro modo, gli uomini del Medioevo esercitano molto la memoria visiva, la memoria nel senso mentale del termine, sono abituati a non leggere, però sono abituati a sentir leggere, cosa alla quale noi non siamo più abituati. Quindi la conoscenza di certi testi può venire indotta attraverso la lettura. È evidentemente un altro modo di conoscere. Sul problema di Caterina analfabeta direi che non c'è da scandalizzarsi, ma è uno pseudo problema. Però direi anche che specialmente negli ultimi anni questo è molto improprio. È molto improprio definire Caterina un analfabeta. Non solo perché c'è effettivamente qualche scritto di lei, c'è una lettera spedita da una rocca della nobiltà toscana, eccetera. Ma a parte questo, voi sapete che anche gli analfabeti possono leggere qualcosa, scrivere qualcosa, il punto non è questo. Il punto è che molto probabilmente questo livello Caterina l'aveva superato per le sue necessità, che erano necessità politiche. Nel senso però più pieno del termine, anche su questo ritorneremo. D'altra parte, Caterina incolta, questo no. L'equazione analfabetismo, quindi in cultura, è l'equazione più ingenua e più ingiusta e più imprecisa che si possa fare per il Medioevo. Caterina è donna di grande, direi, cultura. Una cultura, naturalmente, che segue certi parametri. Il parametro delle letture, soprattutto certe letture di volgarizzazione delle vite dei santi, e il parametro del suo incontro, che è stato costante negli anni fra il 74 e la fine, insomma, il 1380, il suo incontro con l'ordine domenicano, che come sapete ha detto qualche cosa sul piano culturale esattamente in questi secoli, fra 200 e 400 e anche dopo del resto. E Caterina aveva una passione, la vita di Santa Eufrosina. La vita di Santa Eufrosina è una cosa che conoscevano anche i bambini, anzi credo soprattutto loro, ed è una storia che è stata esaminata proprio nella prospettiva dell'interesse che Caterina poteva averla da tutti i punti di vista, anche da quello psicoanalitico, che è un'altra moda di questo periodo, degli anni che viviamo. Non la psicoanalisi in sé, ma l'abitudine di applicarla ai parametri storici ed è uno strumento metodologico, perché no? La vita di Santa Eufrosina è la vita di una donna, quindi capite il rapporto, che rifiuta di farsi eremita. Le eremite, come sapete, come del resto gli eremiti, popolano letteralmente il Medioevo, purtroppo non ne sappiamo poco, perché non abbiamo abbastanza documenti, però gli elementi indotti che abbiamo ci inducono a accorgersi veramente che questo mondo, specialmente il mondo non proprio selvaggio, il mondo dove finiscono le culture che sono circumcittadine e comincia un po', diciamo, l'incolto, il bosco, la macchia per noi mediterranei, per noi italiani, Ecco, questo è il regno un po' dell'eremita, quindi non è come, non so, come potete vedere nei romanzi cavallereschi, uno che sta nel più colto della foresta, piuttosto uno che sta ai margini fra il colto e l'incolto, fra il mondo cittadino e il mondo cittadino campagnolo e il mondo del bosco o della palude. Quindi è un uomo di margine, un mediatore, si direbbe oggi, con un'altra parola che va di moda. Ecco, Sant'Eufrosina non lo vuol fare l'eremita. Poi l'eremita, Sant'Eufrosina è l'eremita dei primi secoli, quindi quando si andava nel deserto, nella Tebaide, eccetera. Tebaide, cioè il deserto di intorno a Tebe, in Egitto. Eufrosina si traveste da uomo, e badate che era una cosa, voi sapete che era uno dei capi d'accusa sulla base delle quali è stata condannata Santa Giovanna d'Arco, no? Il vestirsi da uomo. Eufrosina, e questo è veramente un lapsus freudiano che poi vi spiegherò il fatto che io mi ostino a dire Caterina invece di Eufrosina, Eufrosina si veste da uomo per poter vivere in una comunità di monaci, quindi immaginate di tutto il resto anche delle difficoltà, anche il tipo proprio di possibile rilettura in chiave di romanzo settecentesco, e non sarebbe proprio il caso, ma è stata fatta, di questa vita e quindi di come Caterina la leggeva. Evidentemente siamo molto lontani da tutto questo. Il messaggio ultimo è questo, c'è evidentemente un'identificazione, ma in questo senso direi un'identificazione politica, guardate, ora è il momento di specificarlo, io mi ostino a parlarvi in termini di politica, però il valore che io do a questa parola è il valore etimologico, politico nel senso del vivere in quanto cittadini, del vivere in quanto cives. Ecco, il rifiuto dell'eremitismo per vivere in comunità. Noi la comunità dei monaci la consideriamo, e già la consideravano nel 300 stesso, come una comunità di gente in fondo segregata. Questo è abbastanza ovvio perché nel 300 ormai c'erano gli ordini mendicanti che si erano invece inseriti nel tessuto cittadino, c'erano le confraternite e Caterina apparteneva in fondo a una di esse, c'erano i torzordini che erano appunto i mediatori fra gli ordini ufficiali e il mondo del laicato, quindi gente che magari poteva vestire anche, magari non sempre, magari quasi sempre o quasi mai o in certe circostanze o venisse soltanto sepolta, l'abito dell'ordine, che però abitava nelle proprie case, che viveva nella città. Ecco, Caterina sceglie questo. Caterina, come voi sapete, è una domenicana, ma non è una domenicana che stia in convento, è una mantellata, cioè è una terziaria. È una donna che abitualmente vive nella città. Vive nella città e vive in un ambiente maschile. Quando si manifesta la prima, oggi le chiamiamo crisi mistiche queste cose, con questo linguaggio di cattivo cascame romantico che ci è rimasto addosso, quando si manifesta la prima crisi mistica di Caterina, i genitori, soprattutto la madre, sono molto dispiaciuti di questo. Questo anche perché, tutto sommato, abbiamo pensato a fare altre cose. Io credo che fosse un dispiacimento fino a un certo punto, perché in fondo avere una ragazza da sistemare per una famiglia poco abbiente era sempre abbastanza una tragedia, perché bisognava obbligatoriamente costituire una dote, eccetera. Però certamente, ecco, per Caterina, a parte il fatto che c'è un topos, un luogo comune agiografico, per cui il santo quando comincia a essere tale trova subito dei nemici, l'esempio l'avete avuto quest'anno durante il centenario francescano, quando avete sentito molto parlare di Francesco, quando Francesco comincia la sua conversione, il primo nemico è il padre, i primi nemici dei santi sono molto spesso proprio i familiari, che non vogliono che si sacrifichi, non vogliono che perda il leader del mondo. Ecco, Caterina in questo senso era molto vicina a Eufrosina, per lei la comunità... Ecco, lei la comunità la vedeva, diciamo così, cristianamente parlando, dall'interno. La comunità di monaci non era affatto un mondo chiuso. Lei la considerava in rapporto all'eremitismo e ne traeva l'idea che Santa Eufrosina avesse scelto la società. Quindi scelto una via di santificazione che non è quella relativamente facile, evidentemente si fa per dire, relativamente facile dell'eremita, quale vive da solo, fa le sue lotte con la sua carne, con i diavoli che lo tentano e tutta questa cosa, avete presente il parametro di Sant'Antonio, no? Ma è una lotta viceversa quotidiana per l'affermazione nella realtà di tutti i giorni degli ideali per cui si è deciso di convertirsi in senso tecnico del termine, cioè di cambiare vita. Ecco, Caterina, come Eufrosina, vuol restare nella società, però nello stesso tempo vuol restarci a un livello che gli consenta di avere contatti immediati e liberi, e Dio solo sa se e fino a che appunto ne ha avuti, con tutti, e nello stesso tempo che però precisi che ormai essa è, per dirla così con San Paolo, no? Nel mondo ma non più del mondo. Quindi certamente accetta il mantello delle domenicane, quello, tutto quello che chiede alla famiglia nei primi tempi, poi si costituirà un modo di vivere, una comunità di per sé, tutto quello che chiede alla famiglia è una piccola cella familiare dove poter vivere in ritiro. Quindi la cosa di cui forse sentirete parlare molto a lungo oggi e oggi pomeriggio, adesso, fra pochi minuti, oggi pomeriggio, cioè la cella interiore, la cella del conoscimento di sé, come diceva Caterina, che è un qualcosa che non si ha nell'esterno, non c'è bisogno di vivere fisicamente in una cella conventuale, ma che è un qualcosa che si deve costruire al proprio interno, che è un qualcosa che sta, se si vuole, nel proprio cuore, non inteso il cuore come muscolo e come centro dell'organismo, ma inteso come nucleo più intimo, più profondo della personalità. D'altra parte però, con questa cella del conoscimento di sé, che è sempre a portata di mano perché la si porta dentro, evidentemente tutto il resto cade. Caterina, come voi sapete, come forse vi sarete accorti se leggendo certe cose, chi di voi ha letto certe cose di Caterina, è una donna estremamente priva di senso della diplomazia. Fa un po' sorridere il fatto che certi storici moderni stiano a discutere fino a che punto fosse o no una buona diplomatica e fino a che punto fallisse o non fallisse le sue missioni diplomatiche. Vedremo brevemente che in fondo le ha fallite abbastanza tutte, perché non era in fondo la diplomazia il suo scopo. Ed è una donna estremamente brutale qualche volta, scrivendo al Papa, Gregorio XI, nel 77, quando il Papa stava per lasciare Avignon, sulla spinta soprattutto di Caterina, ma non era troppo convinto di doverlo fare. E d'altra parte aveva paura anche a non farlo, perché non c'era soltanto Caterina che lo spingeva a farlo, c'era tutta una parte dei suoi stessi cardinali, eccetera, lo spingevano a tornare in Italia. Caterina gli scrive testualmente, non mi ricordo purtroppo l'espressione esatta e non me la sono segnata, ma è molto bella, e ve la ritrascrivo in linguaggio nostro, molto meno efficace. Non siate così timido nel senso peggiore del termine, timoroso, debole se si vuole, come è vostra abitudine. Stava scrivendo a Papa. E glielo scrive in termini molto precisi. E non è più il momento, gli dice, di essere così indeciso come siete di solito, ma glielo dice in un tono tale per cui Caterina in quel momento vuol sottolineare non l'indecisione dell'uomo politico che ha paura di sbagliare, ma l'indecisione che viene dalla natura debole di Papa Gregorio XI, perlomeno dalla natura che Caterina aveva giudicato tale. E continuamente ripete questo concetto. E il Cristo mi assicura, sapete questo tema delle visioni di Caterina, che Caterina comunica al Papa e di cui il Papa non si fida, ma in un certo senso ha nello stesso tempo un grande fascino, una grande paura. Il Cristo mi assicura che non vi succederà nulla. Ed è una raccomandazione che sembra rassicurante, ma è molto offensiva, se volete, davanti al comando di Dio, davanti ai destini della Chiesa, eccetera. Caterina sembra dire, ma tu in fondo ti preoccupi della tua personale esistenza, ti preoccupi perché c'era una profezia secondo la quale se il Papa fosse tornato a Roma sarebbe morto pochi mesi dopo, come fra l'altro in realtà avvenne. E Caterina non gli dice che non morrà, gli dice andate sicuro, che come sapete, detto da un cristiano a un altro cristiano, è un discorso molto diverso. Naturalmente, probabilmente il Papa l'ha preso in quel momento nel suo terzo senso, anche ristretto, d'altra parte gli uomini sono quello che sono. Ecco, una donna impegnata politicamente, in che modo? Nel 1374 il Papa comincia a interessarsi di Caterina. Caterina è una ragazza senese che ha cominciato a far parlare di sé, di cui i domenicani senesi dicono un gran bene, ma nello stesso tempo di cui molti dicono anche un gran male. Ne parlano anche come una donna pericolosa a diversi livelli. È una donna che ha grossi addentellati nella vita politica senese, nel 71 c'è stata la rivolta del Bruco. Dopo la rivolta del Bruco, Caterina ha cominciato ad avere rapporti addirittura con una certa parte dell'aristocrazia senese, che era anche per lo stesso governo senese pericolosissima. I grandi feudatari di Siena, i Salimbeni, per esempio, sono grandissimi amici di Caterina, e che sono uomini politicamente tutt'altro che tranquilli, tutt'altro che benevoli, eccetera, e che Caterina soprattutto Caterina incita a far bene o a cessare di far male o a non far tanto male quanto facevano, soprattutto spingendo con estrema intelligenza psicologica sulle donne di casa Salimbeni, ed ha una fittissima corrispondenza, d'altra parte è anche amica di questa gente. Addirittura nell'estate del 77 verrà ospitata alla Rocca di Fentennano, nella basta vederne le rovine, ancora qualcosa di impressionante, nella campagna senese, che era veramente la capitale di questi feudatari abbastanza ribelli nei confronti della Repubblica. Quindi una donna che non rifugge da contatti anche politici che noi oggi definiremmo senza dubbio compromettenti. Una donna pericolosa. D'altra parte nel 74 c'era anche un fatto. C'era il fatto che a Roma era morta da poco una grande santa, che è anche una grande visionaria, nel senso tecnico del termine, non in quello volgare, una grande detentrice di visioni, una grande narratrice delle proprie visioni, che è Santa Brigida di Svezia, tra l'altro creatrice di un ordine, eccetera. Santa Brigida ha contatti, si può dire continui, con la Santa Sede, e si ha quasi l'impressione che il Papa in fondo abbia visto in Caterina, probabilmente consigliato e diretto in questo senso, abbia visto in Caterina una possibile prosecutrice dell'opera di Santa Brigida. Opera che fra l'altro era volta esattamente nella stessa direzione di Caterina dal punto di vista politico. Il punto fondamentale è il ritorno del Papa a Roma, e si vedrà adesso, proprio telegraficamente, perché il tempo sta già passando, quali siano i punti politici del programma di Caterina. Caterina, d'altra parte, non ha la fama di Brigida. Brigida è una donna dalle grandi visioni apocalittiche. Caterina non ha mai visioni apocalittiche. L'Apocalisse, la fine del mondo, il giudizio universale, tutto questo si direbbe che in fondo non riguarda la sua spiritualità. Caterina in questo senso è molto moderna. Non a caso, Santa Caterina da Siena, anche se non appartiene propriamente a quel mondo, che è più un mondo fiammingo che un po' un mondo italiano, è considerata oggi dagli storici, dagli specialisti in materia, un pochino una delle figure di santo che cominciano ad aprire la strada a quella che è la cosiddetta devozio moderna. La devozio moderna è un tipo di devozione, la definisco un po' grossolanamente, definendo la devozione, di mondo spirituale che si afferma alla fine del Trecento e che è caratterizzato da questo ritorno a temi intimi, a temi personali, intorno a temi di introspezione, eccetera. Quindi Caterina non parlerà della fine del mondo, Caterina parlerà di altre cose molto più immediate, molto più concrete, se volete. Il Papa la fa giudicare da una specie di tribunale, in realtà, di notabili domenicani riuniti nella capitale intellettuale della domenicana della Toscana, il convento di Santa Maria Novella. Lì Caterina ha molti amici, e fra l'altro amici che appartengono ancora una volta all'aristocrazia fiorentina, quindi vedete questi legami, anche quasi come se Caterina cercasse anche volutamente le persone più pericolose, perché sapesse che da lì possono venire i pericoli, e che nello stesso tempo è proprio a loro che in fondo bisogna parlare di più. Gli Adimari, per esempio, famiglia che ormai non era più molto importante. Un Adimari è un grande maestro domenicano di Firenze ed è uno degli uomini del circolo fiorentino di Caterina. Intorno a lui poi si riunirà tutto un gruppo, soprattutto di aristocratici, fratello di Franco Sacchetti, per esempio, che poi sarà infatti giustiziato nel 79 per sedizione politica, anche se forse in fondo dietro alla sua condanna c'è un fatto politico che riguardava più chi l'ha ucciso che non lui, gli Strozzi, i Canigiani, cioè famiglie in fondo, diciamo, dell'aristocrazia fiorentina, che non è in quel momento al potere. Al potere c'è una, diciamo, una media borghesia che è in contatti non proprio benevoli con la Santa Sede. Perché? Anzitutto perché la Santa Sede, che ha tradizionali buoni rapporti con la classe dirigente fiorentina, ma con la classe dirigente dei grandi banchieri. La Santa Sede ha cominciato, come sapete, quest'idea, a mandare avanti quest'idea di ritornare a Roma. Però per ritornare a Roma bisogna pacificare quelli che noi chiamiamo gli stati della Chiesa, la fascia Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Romagna, parte dell'Emilia. Per pacificare questa zona bisogna evidentemente cominciare a organizzare, o riorganizzare il governo pontificio. Allora si mandano dei delegati pontifici, uno particolarmente importante, il cardinale spagnolo Gil de Albornoz, che nel 1356 riorganizza giuridicamente, tra l'altro è un grosso giurista, riorganizza questi poteri, però naturalmente ecco, gli dà delle norme, le cosiddette Constitutiones Egidi o Egidiane, che sono durate direi fino alla caduta dello Stato della Chiesa quasi, però delle norme che sono tra l'altro anche in un certo senso un modello di come si poteva organizzare uno Stato pluriregionale nel 300, che però non funzionano sul momento. Perché? Perché gli Stati della Chiesa sono una pletora di piccoli o grandi poteri feudali o cittadini o comunali o principeschi in lotta fra loro. Allora naturalmente questi legati, e non a caso l'ultimo, è un grosso aristocratico tedesco, Cardinale Roberto da Ginevra, che però nello stesso tempo è anche un grosso militare, non era un granché probabilmente come uomo di chiesa, ed è l'ultimo organizzatore dei possessi pontifici per preparare l'avvento a Roma, il ritorno a Roma del Papa. Tutto questo avviene ai confini della Toscana, con tutto quello che si può immaginare di conseguenza, trame politiche, sconfinamento di compagnie di ventura, eccetera. Tutto questo preoccupa particolarmente Firenze e Siena. Caterina interviene più volte, c'è il famoso episodio, anche se non è affatto chiaro, per esempio di quel Niccolò di Toldo che lei accompagna fino al sacrificio. Oggi sembra un po' strano perché in realtà lei, quando Niccolò di Toldo è stato ucciso a Siena, è stato decapitato, lei si trovava a Pisa, quindi si parla di una visione, di una cosa reale, beh, tutta una serie di problemi. Comunque, questo Niccolò di Toldo in realtà non era poi un brigante, come è stato presentato dalla cronistica senese, ma era piuttosto un cospiratore politico a servizio della Santa Sede. Uomini in lotta di continuo fra loro, sul bordo, sul margine, sul confine fra Toscana e Stati della Chiesa. Ma l'umore della Repubblica di Firenze, che sta diventando la padrona della Toscana, nei confronti della Santa Sede, infine guerra tra Firenze e Milano, che erano tradizionalmente avversari, ma che in quel caso si alleano, contro il Papa, quella che a Firenze passa come guerra degli otto santi nel 1375 fino al 78. Naturalmente cosa succede? Appena il Papa si vede, la guerra non è contro il Papa, la guerra è contro i vicari papali dello Stato della Chiesa, però naturalmente sempre contro l'esercito pontificio. Questo comporta naturalmente la scomunica dei governanti fiorentini, l'interdetto sulla città di Firenze, quindi si devono chiudere le chiese, non si possono celebrare le cerimonie religiose se non in particolari circostanze e in particolari forme, eccetera. Tutto questo comporta naturalmente una fortissima tensione. Ecco, Caterina vive questi momenti, come li vive? Nel 74 si può dire che dopo il suo processo a Firenze, perché in fondo si è trattato di un processo, ha passato l'esame, per così dire. Il Papa accetta di, in un certo senso, diciamo che accetta di starla a sentire. La inviterà anche presso di sé, ma con molta cautela, senza che l'invito sia mai ufficiale, e lei approfitterà di andarci proprio nel 76 come portavoce ufficiosa del governo fiorentino. Tentativo di pacificare questo governo di scomunicati col Papa sulla base di due parametri che per Caterina erano irrinunziabili. Da un lato il fatto che i fiorentini si dovevano in tutto rimettere al Papa, perché? Perché il Papa è il capo della cristianità e il padre dei cristiani. Dall'altro il principio che il Papa doveva capire le ragioni dei fiorentini, i quali erano stati in fondo assaliti non da uomini di chiesa, ma da un esercito di, Caterina dice, di mali pastori, di cattivi pastori, di falsi ecclesiastici o di ecclesiastici che non facevano il loro dovere di ecclesiastico, perché facevano il politico, il diplomatico, tutto quello che volete, e che erano quindi nemici in fondo della stessa chiesa. Caterina li chiama i cattivi fiori che crescono nel giardino della chiesa e che il Papa doveva strappare dal giardino della chiesa stesso. Quindi, come vedete, è un programma politico estremamente radicale, che non è fatto assolutamente per essere diplomatico. Se volessimo usare dei parametri politologici, diremmo che Caterina, perché si è discusso molto se Caterina sia o no una politica, una diplomatica, una donna di Stato, un uomo di Stato addirittura, come l'ha chiamato uno storico, diremmo che Caterina usava un tipo di diplomazia di rottura, tanto per usare un termine diventato famoso con la rivoluzione d'ottobre. Questa diplomazia di rottura si basava essenzialmente sullo strumento dei colloqui immediati, epistolari quando non poteva essere ricevuta, e della presentazione drastica dei principi di fondo, che erano principi di pace, che dovevano essere, secondo lei, atti naturalmente a dirimere le guerre. Allora, qual è il programma di Caterina? Diciamo subito, prima di concludere con questo programma cateriniano, che questo programma, se si vuole, è fallito sul piano politico. Diciamo altresì che questo programma si scandisce attraverso tutta una serie di fatti, che sono: tentativo di far fare la pace tra il Papa e Firenze, perché questo comporterà due fattori fondamentali: il ritorno di Firenze alla ortodossia religiosa, in seno della Chiesa, diciamo così, perché non si trattava in fondo di una città eretica, si trattava di un fatto disciplinare. La pace, e la pace come premessa per il ritorno del Papa a Roma. Questo è, diciamo così, lo scheletro politico immediato del programma di Caterina. Si scandisce attraverso una grande ambasceria del 76 al Papa, ambasceria strana. Caterina si porterà dietro tutta la sua cancelleria, i malevoli dicevano la sua corte, che era in realtà una cosa molto interessante, che ormai è stata studiata abbastanza in analisi. Tra l'altro c'era anche perlomeno un notaio, che era Cristofano di Gano Guidini, che è uno degli uomini che poi ha steso gli scritti di Caterina. Una corte costituita da mistici, da giovani laici in generale, ma anche da giuristi, da uomini che in fondo erano poco, nella media o poco superiore alla media della vita cittadina, però di una città estremamente colta, estremamente voluta come la Siena del tempo, e quindi si trattava di una specie di piccola cancelleria che era però nello stesso tempo un gruppo spirituale, una famiglia. Naturalmente inutile immaginarsi, perché è facilmente immaginabile, il tipo di commenti anche estremamente malevoli, no? Di questa famiglia rotante intorno a questa grande figura di donna, eccetera. Caterina questa famiglia e questa cancelleria la impone, è un suo, direi, segno, non solo perché ne ha bisogno, probabilmente anche per quella. Poi una donna che scrive, che in generale, anche se non abbiamo le lettere di risposta, viene fatta oggetto di lettere da parte delle più grandi personalità del tempo, dal re di Francia al fratello stesso del re di Francia, al principe di Angiò, fino al Papa, non l'imperatore perché in quel momento non c'è praticamente, ma ai principali capi di Stato italiani. Quindi una donna che ha legami diplomatici e che non si stanca di segnalare certe necessità. Dal giugno al settembre sta alla corte pontificia, il Papa praticamente forse l'ha ricevuta una volta e non ne siamo poi nemmeno tanto sicuri, nonostante quello che dicano le cronache. Non l'ha voluta o potuta, o non ha avuto il coraggio, o non aveva la volontà di riceverla più di una volta. Ha ritenuto che non fosse il caso, eccetera. Però in questo momento Caterina gli scrive addirittura, si può dire che gli scrive, stando in una camera, scrive una lettera destinata alla camera accanto. Quindi questa era la situazione. Poi, dopo il 77, dopo il ritorno del Papa a Roma, grande campagna per la composizione dello scisma, perché come sapete il ritorno del Papa a Roma ha coinciso, poche settimane dopo, con una riunione di alcuni cardinali che erano scontenti di questo ritorno, a Fondi, presso Roma, nuovo concilio, elezione di un Papa, che tecnicamente siamo abituati a chiamare antipapa, nella persona di Roberto di Ginevra, cardinale guerriero di cui si è parlato poco prima, che diventa Papa Clemente VII, contrapposto a Papa Urbano VI, il cardinale Frignano, che era stato eletto poco prima a Roma. Quindi lotta, scisma, Caterina sceglie la parte di Urbano VI, badate, questo non lo fa per un problema di ortodossia religiosa, religiosamente parlando si era altrettanto ortodossi dall'altra parte. San Vincenzo Ferrer era un grande propagandista del Papa di Avignon, perché questi papi tornano ad Avignon, gli antipapi, quelli che noi per tradizione chiamiamo antipapi, e non... il tipo di religiosità era più o meno la Chiesa era la stessa, l'obbedienza era diversa. Ebbene, qual è il nucleo, e finisco, perché ho abusato di voi, qual è il nucleo di questa spasmodica, incauta, non riuscita volontà politica di Caterina? Ecco, se io avessi intenzione di, così, come dire, accarezzare l'uditorio, prenderei la scorciatoia, anche perché sarebbe tempo di farlo, e direi la pace, che è una bella parola, riempie la bocca e tutti sono contenti. Però bisogna specificarla un po', questa pace, che cosa significa e come la articola Caterina. Che se voi leggete le lettere di Caterina, voi vi accorgete che questa donna che predicava di continuo pace, qualche volta predica il suo contrario. Caterina, per esempio, quando ormai nel 79 si è trasferita direttamente a Roma per stare più vicina al Papa, non si sa quanto il Papa fosse contento di questo, ma lei ha scelto di farlo, il Papa non ha osato, nonostante fosse il Cardinal Prignano, che era notoriamente un caratteraccio, non ha osato contrapporsi a questa sua scelta. Caterina organizza, secondo la leggenda, addirittura lei in prima persona, gli aiuti, si potrebbe dire, per l'esercito pontificio che combatte contro l'esercito dell'antipapa. Quindi è una donna che entra nella guerra civile, e c'entra volontariamente, e parla della necessità di distruggere, non fisicamente, ma comunque di distruggere militarmente la forza dell'antipapa, e ne parla come di una forza diabolica. Quindi è una donna che non parla di pace in senso ellenistico, non è la pace a ogni condizione. È una donna che dal 75 in poi ha propagandato la crociata. Io credo, può darsi sia una mia personale mania, io credo però che questo elemento della crociata sia non centrale, ma sia il sintomo fondamentale e la via attraverso la quale si può capire proprio il meccanismo dell'ideale di Caterina. Questo ideale è evidentemente la pacificazione della società cristiana. La pacificazione della società cristiana passa attraverso la sua composizione nell'obbedienza al pontefice romano, il quale pontefice romano, come segno di questa avvenuta ricomposizione, deve recuperare la sua sede naturale, che è la sede di Roma, nella quale convergono infiniti elementi. C'è senza dubbio un elemento religioso, la sede di Pietro, un elemento tradizionale. C'è anche un elemento nuovo di cui Caterina non parla, ma che certamente era nell'aria e che Caterina non può non aver colto, l'elemento che noi chiameremmo preumanistico, no? Il ritorno all'interesse di Roma anche come centro della cultura, come centro della civiltà. Questo grosso fatto che noi conosciamo per il 400, ma che è già cominciato addirittura prima della nascita di Caterina in qualche caso. Quindi questa pace, che deve coincidere con la ricomposizione della cristianità, trova nella crociata la sua estrinsecazione, non tanto perché la crociata sia un'antipace in quanto guerra, ma in quanto la crociata presuppone l'unità stessa dei cristiani. Presuppone quindi naturalmente la concordia dei cristiani, presuppone la pace. Ecco, questo ritorno, pace all'interno delle città, pace all'interno delle nazioni della cristianità. Se si vuole esprimersi in termini antropologici, si potrebbe dire esportazione della violenza fuori dei limiti della cristianità, però questo non sarebbe ancora vero. Può darsi che, non so, oggi sono molto di moda le tesi di certi etologi, Conrad Lorenz, eccetera, no? I quali parlano appunto della coesione del gruppo, il quale gruppo è tanto più unito all'interno anche degli animali, no? Al suo interno, quanto più esporta la violenza, quindi quanto più un gruppo è guerriero, tanto più è pacifico al suo interno, e fa l'esempio Lorenz di certi tipi di animali, anche di pesci, per esempio, eccetera. Tutto questo oggi ha molto successo, e non è detto che da questo non si possano trarre anche delle indicazioni storiche. Però certamente, ecco, il punto fondamentale è che Caterina, quando parla di crociata, parla sì di lotta all'infedele, ma ha presente essenzialmente due fatti: il versare il sangue per il Cristo, quindi il martirio, questo per elevare il gonfalone della croce. Secondo fatto, la prospettiva che attraverso la guerra con l'infedele qualche altro fatto possa anche verificarsi in quella direzione. Guardate, Il 300 è un momento di crisi, si è detto di ansia, si è detto anche ampiamente. Nel 200 si era già avviati sulla via delle missioni, sulla scia dei commerci, eccetera. Nel 300 il grande impero mongolo è crollato, le vie dell'Asia si erano chiuse, ormai non era più possibile questa realtà missionaria. Però, e quindi si era perso anche forse un po' il senso, la prospettiva delle possibilità missionarie. Nello stesso tempo, essa rimaneva a certi livelli. Caterina ne dà prova. C'è un suo scritto famoso in cui c'è una visione, la visione del cuore del Cristo. Poi, siccome forse molti di voi ricorderanno, in un'altra visione Caterina ha visto il Cristo che cambiava il proprio cuore con il suo, quindi questo cuore del Cristo può essere il cuore di Caterina stessa, nel quale entrano in due schiere distinte, quindi la distinzione c'è, non c'è una specie di unità così più o meno generica, come due schiere distinte, entrando nel cuore del Cristo, il popolo cristiano da un lato, il popolo saraceno dall'altro, e Caterina dice, mi sembrava di passare in mezzo a loro, quindi di entrare a sua volta nel cuore del Cristo, in mezzo alle due schiere, la cristiana e la musulmana, quasi si ponesse sintomaticamente al di fuori della schiera cristiana e come mediatrice fra le due. Recentemente a un convegno a proposito di Francesco d'Assisi si notava, uno storico delle religioni notava, come queste immagini siano estremamente frequenti e quasi simili nella spiritualità islamica o nella spiritualità indù. Quindi evidentemente siamo davanti a una grande personalità, una personalità universale che però trae le radici di questa universalità dal proprio tempo. La pace di cui parla Caterina non è la pace in assoluto, è la pace del suo tempo. Gli strumenti che Caterina indica sono gli strumenti del suo tempo. Quanto al fallimento della sua politica, credo che sia abbastanza chiaro, ho parlato fin troppo, che in realtà Caterina politica non ha voluto essere mai, ha voluto semmai essere una testimone della necessità per il cristiano di modificare lo stesso atteggiamento politico che egli ha scelto laddove si verifica quello che Giovanni Bosco chiamava il momento in cui la politica tocca l'altare. E questo forse è l'elemento ultimo del messaggio cateriniano dal punto di vista politico. Non una politica, perché avrebbe agito differentemente, non quella che oggi potremmo chiamare con un termine che può restare molto simpatico, molto antipatico, ma che è comunque un termine che trae in inganno una politica integralistica, tutt'altro. Caterina è vero che qualche volta è disinformata in politica, ma è vero che molto spesso ha il senso della concretezza immediata delle cose, ha il senso delle persone. Poi sapete, questo per darvi un'idea qualche volta anche dell'imbecillità degli uomini di cultura, perché c'è anche questa dimensione da non dimenticare. Molto spesso si traggono indicazioni dall'epistolario di Caterina che non solo è stato raccolto posteriormente e non da lei, ma che addirittura, e lo sappiamo bene, è stato espunto di tutte le parti, non per motivi di censura, perché si riteneva che in fondo non fossero importanti, mentre sarebbero una miniera per lo storico, di tutte le parti personali. Ora, siccome la lettera di Caterina si è detta aveva una cancelleria, no? Una specie, la lettera di Caterina non è un documento generico, è un documento molto ordinato, che segue la prassi cancelleresca in un certo senso. Per nulla c'aveva un notaio che la scriveva. Un protocollo, una dichiarazione di intenti generali, una narrazione dei fatti, una parte di saluti. Ecco, la parte che parla dei fatti personali, per esempio certi consigli privati che Caterina dà ai suoi corrispondenti, è stata tolta. Ora è vero che Caterina si occupava delle piccole e delle grandi cose, scriveva al duca d'Anjou ricordandogli il suo dovere di andare in crociata perché tutti dobbiamo morire e nessuno di noi sa quando, e quindi bisogna essere sempre pronti, però scriveva anche alla piccola popolana di Siena raccomandandogli di non preoccuparsi del suo privato problema economico, perché Dio l'avrebbe risolto e forse l'avrebbe risolto anche un po' lei con l'aiuto magari dei grandi signori salimbeni. Quindi vedete questa grande carità, ma nello stesso tempo questo grande senso di concretezza politica. Quindi evidentemente si tratta di una concretezza politica che però non appartiene a quella che oggi chiamiamo la sfera del politico. E d'altra parte il fatto appunto che le sfere del politico siano modificate è uno degli elementi che ci danno il senso del trascorrere del tempo e della storia, è uno degli elementi che fatalmente si verificano. Grazie per la vostra attenzione. Ringrazio a nome di tutti il professor Cardini di questa lezione così ricca, così densa, che ci ha dato un'idea, e mi pare ci voleva tutta per darcela, di quel tessuto umano e sociale in cui una figura apparentemente così fragile si è inserita a operare in un modo molto, molto incisivo. Ringrazio anche tutti voi dell'attenzione con cui avete seguito la lezione, che desta in certo qual modo una mia ammirazione nel cuore. Vi lodo volentieri per questo, però vi chiamo subito anche all'ulteriore impegno. Facciamo 10 minuti di pausa per poi riprendere subito con la lezione di padre di Robasenda, vero? E con la speranza di chiudere intorno a mezzogiorno. Grazie.